Com'è stata, per quello che ti ricordi, la tua infanzia, proprio da bambino? Oh, la mia infanzia è stata estremamente desolata, misera, e poi ho subito quello che ho sempre considerato il trauma peggiore della mia vita, cioè di essere stato rinchiuso in un collegio di orfani dove ogni comunicazione umana fra me e gli altri venne annullata, spezzata, calpestata dal fatto che io mi consideravo vittima di un'ingiustizia piuttosto che un beneficato dalla società. E questo trauma ti è sempre rimasto? Credo Non è una che domanda, è no, un'affermazione. sì, beh, credo che sia un po' vero, che cioè è difficile per l'uomo superare interamente un trauma della sua fanciullezza che si sia poi prolungato per una decina d'anni, come fu il caso mio, insomma. Da ciò una tendenza all'isolamento, da ciò una tendenza che non è né orgoglio né presunzione, La anzi è il difficoltà del contrario, rapporto anzi umano è il personale. contrario dell'orgoglio e della presunzione, ma è quel che resta, per fortuna non molto, di questa idea Ma lì nell'orfanotrofio sei rimasto fino a quanti anni? Ne sono rimasto appunto fino a 16 anni. Niente, Lì cosa facevi? mi mandarono alle scuole elementari, mi fecero fare anche le scuole complementari, come le chiamano ora, che si chiamavano tecniche, poi andai a fare l'impiegato in una fabbrica di ceramica. La mia aspirazione era invece di diventare operaio ceramista, ma poi appunto sciopero del 1908 al quale partecipai mi fece allontanare dalla fabbrica e di lì cominciò un altro indirizzo della mia vita verso il movimento d'organizzazione sindacale politica. Ma lì all'interno dell'orfanotrofio, come dire, giocavate, c'era un Certo, sì. ma certo, no, probabilmente fu un fatto non logico, ma a me parve che d'improvviso dovessi odiare tutto quel che mi si faceva fare, anche se probabilmente quello che mi si faceva fare era quel che normalmente mi si doveva far fare. Ma solo perché nasceva da un'imposizione, non so, io bisognava pregare e io bestemmiavo, bisognava essere in lutto perché c'era stato l'attentato contro Re Umberto, io gioivo dell'attentato, ma non per un rapporto, non perché amassi la bestemmia o non perché mi rendessi conto di quel che rappresentava un regicidio o altri fatti del genere, ma perché bisognava che facessi il contrario di quello che mi si voleva imporre. Ma vabbè, questo fa parte di una psicologia individuale, fanciullesca, molto tormentata, ma non è della miseria nel senso fisico del termine che io ho osservato una ricordo amaro, quella l'ho conosciuta anche dopo, l'ho conosciuta anche nei primi anni dell'esilio, e quello non lascia nessuna traccia, quello, anzi direi che tutto sommato è un grande incentivo nella vita degli uomini. È questa violenza morale, insomma. Mai un tentativo di convincerti di una cosa, mai una spiegazione su quello che dovevi. Lo dovevi fare perché lo dovevi fare. Cioè la caserma ha 5, 6, 7, 8, 10 anni. E a introdurti alla vita politica, proprio come dire istituzionalmente, chi è stato? Cioè c'è sempre, no? Quello che induce. Sì, c'era in collegio un ragazzo a me superiore di 3 o 4 anni, un certo Cenni, che aveva, che leggeva, che si Di nome procurava, cos'era? Cenni Achille, Achille. che si procurava qualche libro, si procurava qualche opuscolo. Le prime mie letture furono letture di robe mazziniane, garibaldine, Victor Hugo. Ricordo che il primo opuscolo dove lessi e la parola e il significato di sciopero fu un opuscolo anarchico che riproduceva alcune delle pagine più truculenti del Germinal di Zola e che mi fecero un'impressione veramente ossessionante, insomma, direi che non vivevo su quelle pagine.